Vita di merlo. Il merlo fece un volo e tornò al nido. Il merlo fece un volo, mangiò un verme e tornò al nido. Il merlo fece un volo, incontrò una merla, fece con lei quattro chiacchiere e tornò al nido. Il merlo fece un volo, incontrò di nuovo la merla, le disse: «Vogliamo mettere su famiglia?» Lei rispose: «Sì», e tornarono al nido. Il merlo fece un volo di rifornimento, mentre la merla covava tre uova, raccolse nel becco alcuni vermi, qualche insetto, non ne inghiottì nessuno e tornò al nido. Il merlo fece un volo di rifornimento per la merla e i tre piccoli. Strada facendo fu attaccato da uno spaviero. Riuscì a evitarlo gettandosi a terra e anche lo spaviero a malapena evitò di schiantarsi contro un sasso. Poi tornò al nido. Il merlo fece un volo dimostrativo. I piccoli lo guardavano dal nido e sbattevano le ali. Il merlo li chiamò da un ramo di fronte, quelli però non vennero. Poi tornò al nido. Il merlo fece un volo con la merla e i tre piccoli, che ormai erano grandi come lui. Poi tornarono al nido lui e la merla. E il merlo fece ancora molti altri voli per sé, la sua merla e per altri piccoli. E il merlo fece un volo, ma non tornò più al nido.